cinema continua su Radio Onda Rossa, infatti le interviste audio che realizzo per il mio blog tuttascena1.wordpress.com andranno in onda in forma registrata, quindi non in diretta, il giovedì sempre dalle ore 14 alle 15, e l'indirizzo di posta elettronica resta lo stesso: visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento telefonico con la regista Monica Maurer per parlare del Cineforum Palestina e le donne. Quattro cortometraggi che saranno programmati il 1 marzo di 2018. Allora Monica, ben ritrovata. Grazie Federico. Contentissima dopo un anno, perché più o meno era un anno fa che abbiamo fatto 3.000 notti. Sì. Questo sarà un, appunto, Cineforum dedicato alle donne. No, tu sai che noi il Cineforum, e questo sarà anche un certo anniversario, perché entriamo nel sesto anno del Cineforum, ormai sono 6 anni. E lo facciamo, e anche se una settimana prima dell'8 marzo dedicato alle donne. Sì. Senti, allora, tu ti ricordi che ormai le registe donne in Palestina sono la maggioranza, molto più del 50%. Ed è già un bel dato questo. E quello è un bel dato, direi proprio, sì. Sì. Allora, facciamo il secchio d'acqua, cioè sul problema dell'acqua. Sono 4 donne di diverse generazioni che raccontano la loro vita di lavoro e di vita sotto l'occupazione, e di Rabiha Alan, che è una insegnante di storia nella scuola superiore nel campo profugo di Jalazun, a Ramallah, sì. e dove lei era nato nel 72. Lei si è laureato alla Università Birzeit in letteratura e storia, ha fatto un libro From the Village to the Camp, cioè dal villaggio al campo, e una delle donne che insieme a una regista, anche di donna importante, che è Sahara Dirbas, che ha fatto Bride of Jerusalem, ha fatto dei film sulla violenza con le donne, eccetera. Lei ha messo in piedi un workshop per dare la possibilità di imparare sia riprese che montaggio per giovani donne in Palestina, quasi tutti di vari campi profughi. Sì. E c'è un altro film che è nato in questo contesto, che si chiama Il segreto delle donne pastore, che di Basma Sweety, anche The Shepherd's Woman's Secret, che è una donna nata all'inizio anni 70, quindi già una quarantina d'anni, ha 7 figli, figurati, e ha cominciato a filmare la realtà che li circonda nel campo profugo, nel suo villaggio a Beit Ayun, filmando dei matrimoni, cioè una che filma preparazioni e poi le feste di matrimonio, e ha fatto questo corso con Sahara Dirbas, e che si chiama Documentation of Palestinian Women's Oral History, cioè per documentare la storia orale delle donne palestinesi. lei ha fatto il suo primo documentario che non sia quello di Vilma Riva Matrimonio con questo film sulle il segreto delle donne pastore, che sono il ritratto di due donne, una a 75 e una a 90 anni, che raccontano come che hanno cominciato a fare lavorare nella pastorizia già a 10 anni, e come raccontano come la vita e poi l'occupazione Sì. ha cambiato la loro vita, la vita delle loro famiglie e il modo di lavorare durante questi più di 60 anni. Poi c'è un film che, bellissimo, di Gaza, di una giovane donna, Alastair Iyad, di Gaza, che si chiama The Bus Driver Woman, cioè una donna che ha avuto già da giovane il sogno di prendere una patente di guida, e con tante difficoltà alla fine ce l'ha fatta e ha comprato un pulmino col quale porta i bambini a scuola. E un, cioè un, cioè un scuola un scolabus. E poi c'è un film sempre fatto da una donna, Nisrin Silmi, che è giornalista, reporter, si è laureato in giornalismo alla Università di Annajah a Nablus e ha lavorato 10 anni per LBC, che è il canale televisione, Lebanese Broadcasting Channel, e da 12 anni lavora per Al-Mayadeen. Per Al-Mayadeen lei ha fatto un film su un documentario sui bambini rinchiusi nelle carceri israeliane, perché sai che Sì, sempre sì, di più si arrestano bambini, e ci sono più di 350 al momento in prigione in Israele. E questo film si chiama Detained Dreams, cioè Sogni imprigionati, e una dimostrazione, una testimonianza sulla violazione della Convenzione dei diritti umani, in particolare dei diritti del bambino, e poi anche mostra come le pesantissime tecniche di interrogatorio a cui vengono sottoposti i bambini, anche di tortura, creano dei traumi indelebili nei bambini, e che quindi questo esempio che abbiamo messo sulla locandina, no? Ahed Tamimi, la 17enne, o quando è stato arrestato, anzi ancora 16enne, ragazza di Navisale, che rischia 10 anni di prigione per aver schiaffeggiato un soldato israeliano che volevano entrare in casa loro, dove sta un suo cugino a cui è stato sparato, e gli hanno ferito, ha perso un occhio, ha ferito alla testa. A proposito, questo ragazzo proprio ieri, no, l'altro ieri è stato di nuovo arrestato dopo 3-4 interventi per ricomporre la sua faccia e la sua testa, e con sempre lo stesso principio della detenzione preventiva, il che vuol dire che non hai diritto a un avvocato, non hai una accusa precisa definita, non hai praticamente nessun diritto civile che le convenzioni internazionali richiedano ti è garantito. E quindi questo cineforum dedicato sì al cinema delle donne, al problema delle donne, ma anche al scottante problema dei prigionieri politici, sì. e quindi a Aarhus, che è il simbolo della resistenza contro l'incarcerazione per tutti quelli che lottano contro l'occupazione, è diventato un simbolo, quindi noi dedichiamo la giornata delle donne a Aarhus come rappresentante di tutti i prigionieri politici. Senti Monica, in chiusura parliamo anche del Cineforum Palestina, diciamo qual è lo spazio e insomma cosa propone, dove si trova? Cioè il Cineforum Palestina è una iniziativa appunto cominciata 6 anni fa insieme alla cioè che l'archivio audiovisivo del movimento operaio che si trova in via Ostiense, cioè dove c'è la centrale Montemartini, e che è un archivio appunto archivio con un patrimonio ricchissimo di non solo la storia del movimento operaio, tutte le lotte civili, e insieme alla rete romana di solidarietà con la Palestina, e questa edizione in particolare è in cooperazione col Festival Al-Art, che è un festival Al-Art Stock Film Festival a Cagliari, che fra il 17 marzo, dal 17 al 24 marzo, celebra il suo 15° anniversario, e io ho il grande piacere e la gioia di essere non solo la madrina ma anche il direttore artistico di questo festival. Allora, il Cineforum è ogni primo giovedì del mese. Noi mostriamo nella nostra sala dedicata a Cesare Zavattini, la nostra sala Zavattini, un film palestinese. Perfetto. Allora ricordiamo Cineforum Palestina e le donne, 4 cortometraggi in programma il 1° marzo. Monica, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie Federico. Ben ritrovata Patrizia Salvatori. Salve, buon pomeriggio, buona giornata a tutti. Con te per parlare del Cine Club Alphaville e della programmazione di marzo che ha alle porte. Eh sì, ormai siamo arrivati a marzo, speriamo che sia un marzo diciamo non freddissimo, che davvero sia l'inizio della primavera. Noi così pensiamo che può essere l'inizio di primavera, infatti diciamo il mese di marzo è stato titolato finalmente marzo, e prevede 4 rassegne che in qualche modo si dovrebbero aiutare appunto ad arrivare poi alla primavera. La prima di queste è una rassegna dedicata a Guillermo del Toro, che è appunto regista messicano molto noto per film che hanno avuto anche un grande successo non soltanto di pubblico, cito per dire Il labirinto del fauno, che infatti daremo, e La spina del diavolo, di cui ci andava appunto di guardare anche qualche altro film, considerata insomma la sua presenza importante in alcune grandi manifestazioni, in alcuni grandi festival internazionali, e anche nel nostro a Venezia prossimamente a settembre si occuperà di essere appunto il primo giurato diciamo del festival. E quindi niente, guarderemo insieme nei primi giorni di marzo, dal 1 al 4 per dal 5 per l'esattezza, guarderemo appunto una serie di film, tra cui anche il Nick e tra cui anche Crimson Peak, e quindi guarderemo queste storie che ci hanno molto colpito perché riguardano un regista che è stato

19, quindi praticamente oggi, vuol dire avremo già comunicato in queste ore i vincitori, per cui non li ho detti, ma poco conta, in realtà tanta discussione per scegliere, perché è stato molto difficile, ci sono state speciali al di là del premio in sé. È un modo per focalizzare il mondo del documentario italiano che da anni il Sindacato Cinematografico cerca di fare nella maniera più eclettica e anche imprevedibile possibile, dando rilievo anche a piccole storie, a piccoli film, tant'è vero che fra i segnalati ci sono Sara di Pistolini sulla violenza purtroppo sul femminicidio, Talien che è stato premiato a Torino, davvero molto interessante, o Metti una sera a cena con Patroni Griffi, lo stesso lavoro di su Schnapper di Corsicato, Moravia Off, Lionello e Brunello di Jacopo Quadri, insomma sono segnalati perché evidentemente sono dei documentari molto interessanti, e arrivare alle cosiddette cinquine per chi sceglie non è mai facile, alle volte è felicemente ingrato come compito. Bene, invece ricordiamo Italia Doc, la Casa del Cinema qui a Roma dal 6 marzo al 17 aprile con Maurizio Di Rienzo. Maurizio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, buoni documentari a tutti, come amo dire in maniera banale, ma credo logica. Ok, ciao Maurizio. Ciao. Benvenuto Gabriele Diverio, direttore della 17ª edizione del Glocal Film Festival al Cinema Massimo di Torino dal 7 all'11 marzo. Benvenuto Gabriele. Grazie mille, grazie per lo spazio. Ci presenti questo festival? Sì, allora il nostro festival è un festival che ha come obiettivo la valorizzazione della cinematografia regionale. Questa mission la portiamo avanti durante il festival e anche durante l'anno con tante iniziative su tutta la regione. Il nome Glocal Film Festival sta a significare che siamo ben radicati localmente, ma il pensiero è globale e da lì Glocal. Questo perché sia i cortometraggi delle sezioni Spazio Piemonte che i documentari lunghi della sezione Panoramica Doc hanno dei punti di collegamento con la nostra regione, o dal punto di vista dei set, delle produzioni, oppure dei registi che sono nati qui o vivono qui. E da qui si parte poi per riflettere sui temi che sono quelli universali, che sono propri di ogni festival. Ho visto che c'è un cartellone molto denso. Sì, abbiamo 88 film tra corti, documentari, lungometraggi in 5 giorni di festival, e oltre alle due sezioni competitive di cui ti ho già accennato abbiamo un importante omaggio a Flavio Bucci, dei focus di festival con cui siamo gemellati e sono 9 in tutto, e altri momenti riservati ad altri personaggi meno noti ma che hanno importanza per la cinematografia locale, come ad esempio l'omaggio a Pete Formento. Allora, dato che è la 17ª edizione di un festival che ormai consolidato, volevo chiederti rispetto agli inizi, come si è sviluppato, come si è modificato e cosa ha conservato poi dei tratti originari? Ma ha fatto grandi cambiamenti, soprattutto da quando nel 2008, infatti sono 10 anni quest'anno, il festival si è spostato da Moncalieri, dove era nato, e si è trasferito su Torino. Le novità più grandi sono state sicuramente la creazione delle sezioni competitive con 2 premi in denaro importanti, Spazio Piemonte da 1.500 euro per il miglior corto e Panoramica Doc 2005. E poi la forma più snella che siamo arrivati a creare negli ultimi 3-4 anni, quindi con 2 concorsi e degli omaggi, è quella che ci sembra funzioni meglio, perché andiamo a lavorare di cesello e quindi c'è più qualità. Rispetto alla cinematografia locale, com'è lo stato dell'arte? Ma lo dicevamo anche questa mattina in conferenza stampa, sicuramente siamo una regione fortunata perché il cinema si vive e si vive di cinema, La Film Commission locale attira sempre tante produzioni, c'è Rai con la sezione Piemonte, Rai Teche, che è sempre molto attiva e che collabora con noi all'anteprima, cioè all'apertura del festival con Ligabue, il film del 1977 con Flavio Bucci. C'è il Politecnico sezione cinema, c'è la scuola Holden che sforna sceneggiatori, quindi ogni anno noi riusciamo a visionare centinaia di corti, da cui poi ne selezioniamo 20, e sempre tra i 35 e i 40 documentari lunghi, di cui poi vengono portati 10 in finale. Sicuramente partiamo da un terreno fertile. Gabriele, è prevista anche la presenza degli autori e momenti di interazione con il pubblico? Sì, certo, le proiezioni competitive di Panoramica Doc sono sempre introdotte da registi, produttori e distributori. Quindi c'è sempre una presentazione e un momento di confronto post proiezione. Dal punto di vista degli omaggi abbiamo anche lì Flavio Bucci, nostro ospite dal primo all'ultimo giorno, quindi ci racconterà gli aneddoti di ogni set. E anche per quanto riguarda Pit Formento ci saranno, ahimè non lui perché è prematuramente scomparso, ma amici e colleghi che hanno lavorato e gli sono stati a fianco. E al di là di questa settimana di marzo, come vive il festival durante l'anno? Ma questa è una parte che per noi è molto importante, perché il nostro festival non vive solo in questi 5 giorni, per fortuna. Le attività dell'Associazione Piemonte Movie, che organizza il Local Film Festival, si diramano in tutta la regione, in quelli che noi chiamiamo presidi cinematografici, sono 38 al momento in tutte le province, che sono comuni di piccola media grandezza, dove magari i cinema hanno chiuso, dove ci sono delle realtà di associative o di singole persone appassionate di cinema che ci contattano, e quindi noi abbiamo occasione di fare una piccola casa di distribuzione e riproporre cortometraggi, documentari, film che transitano dal local di marzo, in modo tale da creare un'occasione in più di confronto, di cultura anche, e poter garantire ai registi dei passaggi in più, che insomma, anche al di là del fatto della soddisfazione personale di sapere che il proprio film viene proiettato quasi 40 volte in regione, è anche un aiuto economico che diamo direttamente ai giovani filmmaker. Tornando ai giorni del festival, Gabriele, come è articolata una giornata? Allora, noi iniziamo alla mattina con le proiezioni per le scuole. Sì. Perché abbiamo un progetto anche che avvicina i ragazzi degli istituti superiori al documentario. Poi nel pomeriggio partiamo, mi pare intorno alle 3, 3:30, con dei blocchi di cortometraggi, e di lì in poi fino alla seconda serata documentari, film, momenti di confronto anche legati a masterclass o workshop. Una ad esempio importante che ci tengo a sottolineare è che sabato mattina ci sarà la masterclass Il rapporto tra regista e attore con Marco D'Amore, il famoso Ciro di Gomorra la serie, e Francesco Ghiaccio. Concludendo, Gabriele, ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? Certo, il sito è piemontemovie.com, abbiamo una pagina Facebook che soprattutto in questo periodo dell'anno è molto attiva, si chiama Piemonte Movie, la potete trovare facilmente, anche su Twitter siamo presenti, quindi online si trovano sicuramente informazioni su di noi e sul nostro festival. Allora, ricordiamo, 17ª edizione di Glocal Film Festival al Cinema Massimo di Torino dal 7 all'11 marzo. Un ringraziamento e un saluto al direttore Gabriele Diverio. Un abbraccio e a presto. Grazie, grazie a voi. Ben ritrovato Andrea Paco Mariani. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Allora, con te per parlare delle novità mensili consuete di OpenDDB, distribuzioni dal basso. Paco, mi sembra un mese piuttosto ricco da quello che ho visto. Assolutamente sì, abbiamo il piacere di insomma, segnalarvi tante novità che sono arrivate in queste settimane. Due su tutte: la prima è il film Pigs, che penso conosciate, è un film che è uscito nelle sale nell'aprile 2017, facendo anche dei numeri molto importanti in termini di pubblico, ed è il documentario girato dai ragazzi di Zabalik Studio sul tema del nostro rapporto con l'Europa e con i meccanismi di austerity. Sì. Sappiamo bene essere temi molto complessi e delicati, però sicuramente. E quel film ha un pregio su tutti, quello di riuscire a riportare sul piano della realtà questi meccanismi anche, diciamo, di aspetti di macroeconomia, nel senso che tocca anche una serie di temi di natura economica che non sempre sono di facile comprensione, ma riesce a riportarli sempre su un piano della realtà con la storia di una cooperativa sociale di cui non vi racconto perché appunto potrete vederla nel film. Esatto, sì. Ed è un film comunque che ha girato veramente tanto, soprattutto nell'età dell'anno scorso, quindi per noi è stato un piacere appunto accogliere finalmente anche loro. Tra l'altro i ragazzi di Zavali che avevano già altri film sulla piattaforma, quindi è un rapporto che prosegue già da anni. Poi abbiamo un'altra grossa novità molto importante, che è The Antifascist, un documentario girato tra la Svezia e la Danimarca. Il tema penso che lo possiate intuire già dal titolo, racconta degli ultimi anni, seguendo un po' gli avvenimenti che sono avvenuti in Grecia e in Svezia rispetto al ritorno dei movimenti neofascisti da un lato, e dall'altra parte invece rispetto a come la società civile sta reagendo. Credo sia un film molto importante, per noi è stato molto importante riuscire ad accoglierlo, non solo perché è un film che arriva dall'estero, perché i registi sono svedesi, e quindi che arricchisce un po' anche quella funzione di dialogo tra diverse esperienze e comunità in giro per l'Europa della nostra piattaforma, ma proprio perché anche e soprattutto il tema, come sapete bene, è un tema all'ordine del giorno in queste settimane. Quindi l'idea che anche noi con gli strumenti della nostra piattaforma, che sono quelli tipici di una piattaforma on demand, potessimo dare il nostro contributo al dibattito sull'antifascismo oggi ci è sembrato un passaggio molto importante, quindi siamo molto contenti di aver accolto questo film. Dopodiché abbiamo anche altri due progetti, di cui uno intendo particolarmente perché è un progetto qua nato e cresciuto a Bologna. È uscito finalmente il libro che racconta il decennale del portale zik.it, che è un portale di controinformazione nato qui a Bologna appunto 10 anni fa, nato però in realtà sul percorso di molto più lungo periodo che ha avuto il cartaceo Zero in Condotta, che forse conoscerai anche tu, che era appunto una versione cartacea che è uscita insomma in diverse fasi storiche dagli anni 90 a oggi, e Zik.it è stata la sua evoluzione in termini di portale digitale di controinformazione. Finalmente sono stati compiuti i primi 10 anni di vita ed è uscito questo libro molto ricco, che sia di foto che di informazioni, che raccoglie il percorso e le storie raccontate sul portale in questi 10 anni, e è proprio uscito in questi giorni il libro. Ultimo, ma non meno importante, a livello di nuove proposte, abbiamo anche un documentario che si chiama La merce siamo noi, realizzato sulla Balkan Route, e soprattutto che è stato prodotto e realizzato dal network di Melting Pot Europe, e quindi che ci aiuta ad arricchire ulteriormente tutta la sezione dedicata con varie sfumature al fenomeno delle migrazioni globali, che è uno dei temi che sulla piattaforma abbiamo sempre cercato di raccontare e di curare. Sulla nostra newsletter di questa settimana, ma potete vederlo ovviamente sul sito opendb.it, abbiamo anche segnalato che da qualche settimana abbiamo lanciato una nuova versione del blog e stiamo cercando di trasformare il blog di DDB in un luogo digitale, ovviamente, dove poter raccontare storie, ma anche ragionare un po' sugli immaginari che settimana per settimana proviamo a costruire con tutta la rete di autori. quindi abbiamo lanciato questa nuova versione già ricca di diversi contenuti e articoli, ma che è soprattutto a disposizione su www.opendb.it, non solo per la lettura ma anche per eventuali spazi digitali che chiunque voglia, insomma, chiunque si senta di scriverci dei commenti, degli articoli, delle recensioni, dei racconti, può inviarci, e che pubblicheremo volentieri in questo nuovo spazio di incontro online che abbiamo attivato sul sito. Puntuale come sempre, Paco, i riferimenti web ce li hai dati, io ti abbraccio, è sempre un piacere, e a questo punto ci diamo appuntamento per la prossima newsletter. Perfetto, volentieri. Ciao, a presto. A presto. Il cinema continua su Radio Onda Rossa, infatti le interviste audio che realizzo per il mio blog tuttascena1.wordpress.com andranno in onda in forma registrata, quindi non in diretta, il giovedì sempre dalle ore 14 alle 15, e l'indirizzo di posta elettronica resta lo stesso: visionari@ondarossa.info.